a chi realizza film. Ci lasci tutti i riferimenti web? Certo. Allora, potete trovare le informazioni più aggiornate sempre sulla nostra pagina Facebook, che è quindi quella dell'Associazione Piemonte Movie, quindi se voi digitate Piemonte Movie troverete anche le attività del Glocal, altrimenti il sito piemontemovie.com, e poi siamo anche su Twitter, Instagram, YouTube, ma diciamo che Facebook è la cartina di tornasole per non perdervi neanche uno dei nostri appuntamenti. Allora, ricordiamo la 18ª edizione del Glocal Film Festival a Torino, al Cinema Massimo, Museo Nazionale del Cinema, dal 5 al 10 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Gabriele Di Verio. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi e a presto, ci vediamo in sala. Con Francesca Pigianelli, curatrice dell'evento Donne nell'Arte a Roma, allo Spazio Apollo 11, venerdì 8 marzo 2019. Francesca, ben trovata. Grazie, anche voi ben trovati. È un piacere per me parlare con te e con tutti voi. Ci racconti di questo evento? Allora, questo evento diciamo che non vuole essere un evento prettamente dedicato solo per la data dell'8 marzo, ma come ben tu sai, io spesso nel corso dell'anno organizzo diciamo appunto degli eventi legati alle donne nell'arte in genere. Però questo appuntamento diciamo che è quello un pochino più noto, proprio perché mettiamo insieme dei personaggi, delle anteprime eccetera, in un evento diciamo quasi unico, se vogliamo, perché anche quest'anno abbiamo fatto un miracolo con il programma, abbiamo ben 3 anteprime. Io ringrazio Apollo 11 perché veramente grazie a loro se riusciamo a fare e organizzare questo evento. Le Donne nell'Arte è un'iniziativa promossa dalla mia associazione culturale Roma Arte 20. Quest'anno presenteremo tra un programma ricco, un programma diciamo molto molto interessante, perché 3 anteprime. Il primo è Sogni Sospesi, regia di Manuela Tempesta, che ben conosci, ha vinto tantissimi premi anche con il cortometraggio precedente. Poi abbiamo un'altra anteprima nazionale, Le cose che non ci ho detto, di regia di Cristina Campagna, e poi ancora Core Nero, cortometraggio ispirato al fattaccio del Vicolo De Moro, anteprima nazionale, regia di Antonella Laganà. Okay. Poi abbiamo altre sorprese, abbiamo un bellissimo cortometraggio Apri le labbra, regia di Eleonora Ivone, poi abbiamo uno spot contro la violenza sulle donne e poi abbiamo una breve lettura dell'attrice Ira Fronten, quindi andiamo anche sull'internazionale, sulle donne italo-straniere tra romanticismo e determinazione. E inoltre una nostra scrittrice amica ci presenterà in anteprima il contenuto del suo nuovo libro. Detto tutto? Sì, non è la prima edizione. Com'era nato? Ma è nato perché, come tu sai, che io sono un po' una promotrice anche del cinema indipendente, della musica indipendente, e quindi chiaramente mi contattano per dire: Francesca, guarda, ho questo lavoro, possiamo fare qualcosa, soprattutto le donne, perché sanno che io comunque ho un'attenzione per tutti. E quindi è nata proprio dall'idea di fare un incontro, anche perché poi comunque ci sarà e c'è stato sempre anche un dibattito interessante, anche perché sai, per le donne diciamo che è un pochino ancora molto difficile, quindi ci confrontiamo, ci facciamo una bella chiacchierata ed è un modo anche per esporre i lavori diciamo delle nuove talenti italiane, non solo. È un grande sacrificio, guarda, mettere tu insieme tutto questo. Sì. Senti Francesca, qualche parola in più sulle anteprime che ci saranno lì all'Apollo? Sì, certo, infatti ti ho detto i titoli, sono 3 argomenti diversi, okay. Perché i sogni sospesi è chiaramente è contro la violenza sulle donne. Le cose che non ti ho detto invece è dedicata all'amore, quindi vedi che l'amore comunque appare, non è che noi donne vogliamo farci vedere, no? Così combattenti siamo anche noi, dolci, lo sappiamo essere, no? E poi invece Core Nero, che è un cortometraggio inchiesta, perché è ispirato al fattaccio del Vicolo del Moro. Quindi è la regia di Antonella Laganà, che come sapete insomma è la sorella del nostro caro e grande Rodolfo, un cast anche d'eccezione, perché c'è Paola Viziana Luciani, Francesca Reggiani, e questi saranno i 3 cortometraggi. Mentre lo spot contro il femminicidio è un'anteprima, e la protagonista è Sissi Martini,